La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Vi ricordiamo subito il numero per i vostri SMS: 349-238-6666. E buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Partiamo subito dallo scontro sull'IMU all'interno del Partito Democratico. Torna ad attaccare Matteo Renzi, che stamattina ha parlato a 24 Mattino. Sentiamo allora cosa ha detto proprio ad Alessandro Milan. Io penso che la sinistra debba uscire, perlomeno la sinistra che piace a me, dall'idea che le tasse siano l'unico motore dello sviluppo di un territorio. Mi spiego. In America può avere senso alzare le tasse, ovviamente, a specie ai più ricchi, perché il livello di pressione fiscale è imparagonabile. In Italia si lavora fino al 20 luglio per far contento il fisco. Allora, o capiamo che su questo tema dobbiamo immediatamente dare un segnale, oppure veramente perdiamo il contatto con la realtà. Il fatto di aver intervenuti sull'IMU è naturalmente una cambiale che si paga all'accordo con Berlusconi, questo è evidente. Io credo che sia giusto abbassare le tasse, mi piacerebbe capire da dove partire. Da noi in Firenze siamo partiti dall'IRPEF. E questo era Matteo Renzi ai microfoni di Alessandro Milan, ma l'osservazione sull'IMU non sta bene al segretario PD Guglielmo Epifani. Sentiamo. La riforma dell'IMU non è un regalo a nessuno. Una riforma dell'IMU è un regalo al buonsenso. Aspettiamo la riforma, noi contribuiremo a dare indicazioni sulla riforma. Botta e risposta dunque tra Renzi ed Epifani sull'IMU, su una misura varata la scorsa settimana dal governo Letta, quindi PD nelle tensioni. Sentiamo allora cosa ci ha detto a questo proposito Sandro Gozzi, prodiano del Partito Democratico. L'IMU era nel nostro programma, avevamo fatto una campagna elettorale anche noi dicendo che l'IMU ai redditi più bassi e alla classe media andava tolta e doveva rimanere. Io continuo a ritenere che debba rimanere sugli appartamenti di lusso, sulla parte, diciamo, su quel 10% degli italiani che possiede il 50% della ricchezza nazionale. Quindi io non credo che si tratti di regalare niente a nessuno, ma di essere coerenti con il proprio programma. Io obiettivamente queste sono sembrate più frizioni mediatiche che frizioni politiche. Ecco, non si rischia comunque che questa fase pre-congressuale del PD inizi già adesso, che sia così lunga e alla fine arrivi un partito un po' sfinito? Guardi, purtroppo il congresso del PD è cominciato il giorno dopo la fine delle elezioni politiche e ha dato dei risultati pessimi durante l'elezione del Presidente della Repubblica. Quindi io direi che è meglio che il congresso del Partito Democratico si avvii il più presto formalmente fuori dal palazzo, per evitare che si facciano dei disastri che sono stati fatti dentro al palazzo da alcuni parlamentari del Partito Democratico in varie occasioni, in particolare in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica. Credo anche che sia interesse di tutti e sia interesse e compito dello stesso Epifani di organizzare al meglio, nella maniera più efficace possibile, quel congresso che noi abbiamo già deciso formalmente all'Assemblea Nazionale e si dovrà tenere in autunno, in ottobre, in novembre. Quindi prima si avvia il processo formale, meglio è. Allora, e questo era Gozzi del Partito Democratico. Molti i vostri SMS. A questo punto, Vincenzo, dobbiamo dire di questo radioascoltatore, perché da tantissimo tempo che ci fa sempre la solita proposta. Dice: altro che IMU, lui parla di regolarizzare la prostituzione e di far pagare le tasse alle prostitute. Ora, noi non concordiamo con lui, visto che soprattutto non la prostituzione, ma lo sfruttamento della prostituzione è un reato in Italia, però l'abbiamo voluto leggere perché ci scrive sempre, quindi a onor del vero. Ma ci sono anche molti grillini che ci scrivono, Vincenzo. Assolutamente. Che inciucio, scrive Filomena, e poi riprende il titolo della nostra trasmissione: altro che la politica alla prova, e poi facciamo crescere il Movimento 5 Stelle. Questo è un messaggio, scrive il nostro ascoltatore, per i ribelli del PD. Cercano in tutti i modi di far fuori Grillo perché dice la verità sul sistema politico marcio, scrive Marco. E proprio così l'altro capitolo è il disegno di legge presentato dai senatori PD Luigi Zanda e Anna Finocchiaro, che propone di vietare a tutti i movimenti politici non registrati di partecipare alle competizioni elettorali. La proposta di fatto impedirebbe a tutte le associazioni senza personalità giuridica e senza statuto pubblicato in gazzetta ufficiale di candidarsi a qualsiasi livello alle elezioni. Non ce l'hanno con i 5 Stelle, Vincenzo, no? Che dici? Assolutamente. No, il disegno, se diventasse legge, è chiaro che avrebbe un impatto molto molto importante. Allora noi abbiamo chiesto a un deputato del Movimento 5 Stelle, Sebastiano Barbanti, cosa ne pensa. Sì, è l'ennesima riprova come il PD, poi ovviamente adesso in uno con il PDL, pensano a fare delle leggi contro qualcuno invece di fare delle leggi per qualcosa. Infatti a questo punto pensassero a fare una legge, ad esempio, sull'ineleggibilità di Berlusconi, pensassero a fare qualcosa di serio per cambiare la legge elettorale, qualcosa per abolire le province, qualcosa che faccia il bene dell'Italia. Invece pensano a lottare contro il 25% dell'Italia, contro 9 milioni di elettori. Dovrebbero fare una riflessione pesante su questo. Loro dicono però i movimenti non garantiscono la democraticità interna. È così per il Movimento 5 Stelle? Assolutamente no, più democratici di noi, l'abbiamo anche dimostrato nel caso dell'elezione di Rodotà, per cui a quel punto non è la forma partitica che ti garantisce la democrazia, ma il funzionamento al suo interno, che si chiami partito o si chiami movimento. E noi, penso che più di questo, che cosa volete che dimostriamo? Comunque voi avete uno statuto? Noi abbiamo un non statuto, che ci regolamenta ovviamente e a cui facciamo fede, molto semplice, ma che ci ha permesso d'altronde di entrare addirittura in Parlamento, per cui... Vi sentite attaccati? Ma no, noi non ti curare di l'orma, guarda e passa, per cui noi andiamo avanti per la nostra strada e continuiamo a fare il lavoro che abbiamo fatto a favore dei cittadini. E ancora gli SMS, un nostro ascoltatore chiede a te, Elisabetta, ma sei parente del Batman? Evidentemente prende spunto dalla richiesta del PM di oggi di condanna a 5 anni, vi ricorderete, di Fiorito, il consigliere regionale del Lazio. Quindi resta però la domanda. Allora, io vorrei tanto rispondere assolutamente di sì, e invece no, non sono assolutamente parente col Batman, e avrei tanto però voluto essere parente, magari, non so, con un premio Nobel, qualcuno che ha scoperto qualcosa per la medicina. Invece purtroppo lo stesso cognome, ma non siamo parenti, di Fiorito, che appunto la richiesta del PM è 5 anni perché ha intascato i fondi del PDL alla regione Lazio. Vincenzo, ma intanto continuiamo a parlare del Movimento 5 Stelle, perché insorge contro l'ex paladina del Movimento 5 Stelle, contro Milena Gabanelli di Report. Che cosa ha detto la Gabanelli ieri a Report? Vuole sapere dove vanno a finire i soldi raccolti nel blog di Beppe Grillo, la base contro l'ex candidata al Quirinale, che accusano è una traditrice, Vincenzo. Sì, e poi c'è anche il monito del capo dello Stato Giorgio Napolitano sul lavoro. La crisi angosciante e drammatica che vive l'Italia, scrive Napolitano, impone alle istituzioni, alle forze sociali e alle imprese la messa in atto di efficaci soluzioni per rilanciare l'occupazione e lo sviluppo economico e sociale del paese. Di lavoro ha parlato anche Luigi Casero del PDL, sentiamo. E dopo aver fatto il pagamento dei debiti alla PA che danno risorse al sistema e l'intervento su IMU e cassa integrazione in deroga, è necessario assolutamente intervenire sul costo del lavoro per rilanciare lo sviluppo e specialmente sul costo del lavoro dei giovani. Troppi giovani non hanno lavoro, bisogna cercare con la leva fiscale di favorire questo. E questo era Casero. Ricordiamo che però tra PD e PDL c'è un altro motivo di scontro, si parla di condono tombale, denuncia il PD con la scusa del sisma, un emendamento a firma di Domenico Desiano del PDL al provvedimento sulle emergenze ambientali propone di riaprire fino al 31 dicembre 2013 i termini del condono edilizio 2003. I fondi andrebbero alla ricostruzione, ma dal PD dicono subito di no. Moltissimi vostri SMS, concordo sulle case chiuse, sullo sfruttamento della prostituzione reato, dovrebbero arrestare tutte le prostitute che sfruttano se stessi, ma insomma io... E anche gli F-35, qualcuno propone di non comprarli. Qualcuno propone abolire gli IMU solo per gli immobili con mutuo prima casa. Giacomo, insomma, tantissimi, noi vi ringraziamo e vi ricordiamo che siamo qui tutti i giorni. Un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.